Container tutte le domeniche dalle 10 e dalle 12. Presentazione di Lettere dalla Catalogna con l'autore Giovanni Castagna, CSA Next Emerson, 26 gennaio 2019. Innanzitutto ringraziamenti di rito per l'invito che ci ha fatto molto piacere, insomma, ricevere, per cui siamo molto contenti di poter scambiare qualche idea. Naturalmente la presentazione del libro poi è sempre un pretesto, no? Per cercare di ragionare insieme e a maggior ragione un libro come questo, che poi è un breve diciamo, nella dimensione e umile, tra virgolette, contributo che abbiamo provato a dare e alcuni compagni su quello che stava accadendo in Catalogna nell'arco insomma, dei mesi tra settembre e dicembre dell'anno scorso, quindi tra la dichiarazione unilaterale di indipendenza, il referendum, i risultati del referendum e le elezioni poi autonomiche imposte dal governo di Madrid, perché ci sembrava che alcuni di noi, diciamo, avevano l'impressione che anche negli ambienti militanti, di compagne, di compagni, quello che genericamente si stava dicendo dei fatti, dei protagonisti, insomma, complessivamente di quello che stava avvenendo in Catalogna, un po' poco corrispondente alla realtà. È vero che viviamo in una fase, insomma, molto liquida in cui la realtà è frutto della percezione di chi parla, ogni racconto poi ha la sua legittimità in quanto tale, il postmodernismo ormai ha appianato qualsiasi versione del reale, però poi la carta canta, cioè, nel senso, liquidare quello che avveniva in Spagna, in Catalogna, come un fenomeno comunque di indipendentismo borghese, assimilabile tout court a esempi come quelli nostrani della Lega piuttosto che non de Orban o di altre forme di sovranismo, ci sembra onestamente veramente ingiusto, ecco, proprio anche semplicemente ingiusto nei confronti di tutti quei compagni, di quelle compagne con le quali poi possiamo pure poi, spero dopo, ragionando insieme, chiacchierando, essere in accordo, in disaccordo, in parte d'accordo, molte valutazioni diverse si possono fare su quello che è avvenuto, sulle ambizioni, sulle prospettive, sulle strategie, sulle pratiche, a tutti i livelli, no? Però su una cosa non si può non essere d'accordo, cioè che questo movimento fosse profondamente attraversato da compagni e da compagne e che non potesse essere immediatamente circoscritto a un fenomeno esclusivamente di interesse economico borghese, no? Cioè il fenomeno dell'indipendentismo in Spagna è un fenomeno che ha radici molto, molto antiche. Sappiamo più o meno tutti che chiaramente l'esperienza della dittatura di Franco è stata in parte determinante. Anche indipendentemente da Franco, le spinte autonomiche nel País Basco, in Galizia, in Catalogna, hanno radici molto lontane nel tempo, sono radici molto popolari e comprendere questo fenomeno sicuramente costa una certa fatica. Sicuramente costa fatica anche perché, letto dall'Italia, non c'è dubbio che almeno la componente, diciamo, nazionalistica in termini ideologici di questo fenomeno, a noi che abbiamo un'estrazione internazionalista, mette sicuramente in difficoltà, no? Però probabilmente alcuni sono disposti a fare uno sforzo di interpretazione, cercare di calarsi in un contesto per capire che cosa effettivamente avviene e come quel fenomeno, quindi in questo caso per esempio il nazionalismo, può essere in alcuni casi progressista, no? E altri hanno deciso, tout court, di invece liquidarlo come qualcosa di borghese, di reazionario e di sciovinista. Non era certo, no, la nostra intenzione quella di far passare l'indipendentismo catalano per un fenomeno esclusivamente antagonista e anticapitalista. sappiamo perfettamente che all'interno di quello spettro molto ampio di popolazione che insiste e persegue questa strada ci sono componenti molto diverse, moderate, finanche di destra, di una destra moderata, di una destra liberale, no? Ma sicuramente quello che non si poteva dire era che la componente anticapitalista non ci fosse. E il fatto che compagni che noi conosciamo direttamente, compagne che noi conosciamo direttamente, impegnate quotidianamente nelle battaglie contro gli sgomberi, impegnate quotidianamente nelle battaglie contro la gentrificazione del territorio, impegnate direttamente contro le politiche migranti, razziste del governo spagnolo e catalano, fossero così determinatamente impegnate nella battaglia indipendentista, a noi sicuramente ci ha fatto sorgere delle domande prima di tutto. E infatti il libro poi fondamentalmente è una raccolta di interviste. E in realtà ci sono interviste un po' diverse perché abbiamo provato a non raccoglierle coinvolgendo personalità del mondo della politica che avessero, diciamo, incarichi particolarmente importanti. Non ci sono interviste ad assessori di partiti politici piuttosto indipendentisti o di area antagonista o a portavoci di presenti sui media e piuttosto militanti, no? Piuttosto militanti, gente, compagni coinvolte in questa battaglia anche da posizioni e prospettive molto diverse. Una delle persone intervistate, per esempio Irene, è una compagna che da una decina d'anni a questa parte ha messo in piedi una piccola cooperativa editoriale, gestisce una libreria di quartiere, organizza quindi attività di carattere culturale ed è una compagna coinvolta nella battaglia indipendentista, che milita, diciamo, nelle organizzazioni femministe catalane e che ci ha dato una prospettiva dal suo punto di vista molto legata a quello che può essere uno dei fili conduttori, insomma, interessanti da analizzare per noi, no? Che è quello anche del tessuto organizzativo, economico, produttivo. Chiaramente la Catalogna è un territorio nel quale la tradizione cooperativista è una tradizione molto forte, una tradizione anche lì, no? che ha origini lontane. E il movimento operaio catalano ha saputo esprimere anche all'inizio del Novecento, fin dall'inizio del Novecento, insomma, in forme cooperative la sua organizzazione, dando vita a delle esperienze molto, molto interessanti. E quella sua in particolare, per esempio, di una cooperativa editoriale, è una delle tante che si potevano raccontare. Rolando D'Alessandro è in realtà una specie di esule italiano, che è un compagno dell'area, insomma, dell'autonomia della fine degli anni 70, che per una serie di vicissitudini personali si è trovato a dover andare via dall'Italia e è approdato a Barcellona, dove vive ormai da quindi più di 30 anni e ha cominciato a occupare e a militare nelle organizzazioni, insomma, di base. E ha messo in piedi una serie di situazioni molto attente al tema della repressione e quindi all'analisi in generale che in Spagna è importante fare rispetto alla permanenza delle radici franchiste nell'organizzazione dello Stato e nei rapporti, insomma, interni fra i territori e il governo centrale, perché questo è un tema. Comunque un tema molto delicato. Cioè, comunque la Spagna è un paese che non ha saputo fare i conti con il suo passato e che in qualche modo all'interno delle sue stesse istituzioni, a differenza di altri stati comunque capitalistici, borghesi, nel quadro, come dire, del continente europeo, ha delle peculiarità dal punto di vista comunque della applicazione dei dispositivi di violenza, che vanno comunque analizzati con maggiore precisione. Quello che è avvenuto dopo, infatti, la dichiarazione unilaterale, l'attivazione dell'articolo 155 e lo scatenarsi della repressione dello Stato, lo dimostra in modo estremamente esemplare. Cioè, quello che sta avvenendo in questi giorni, mesi, gli ultimi arresti sono della settimana scorsa, la reazione che lo Stato spagnolo ha avuto nei confronti del movimento indipendentista catalano è una reazione brutale, al di fuori di qualsiasi regola, anche minima, di diritto internazionale, di diritti delle persone. Consideriamo che da ormai quasi un anno sono in carcere persone con capi di imputazione ancora del tutto da dimostrare. Una situazione comunque molto complessa da capire, nonostante, voglio dire, qui non si stia cercando di dimostrare che la Spagna sia un caso unico o che la repressione lì abbia caratteristiche che noi non conosciamo anche qui. Però certo il silenzio che ha completamente accompagnato i fatti che sono avvenuti ci ha in qualche modo spinto a almeno a cercare di, attraverso questo piccolo libro, di attivare un micro dibattito. Ecco, questo insomma per parlare della cornice generale. La situazione, come stavo dicendo adesso, a distanza quasi di un anno, è molto difficile. Chiaramente la reazione dello Stato spagnolo è stata una reazione durissima, ha spinto alcune delle persone più coinvolte, Anna Gabriel per esempio, che è stata una delle deputate della CUP nel Parlamento, a fuggire in Svizzera. Marta Rovira, una delle portavoci della sinistra, diciamo, moderata, indipendentista della Esquerra Repubblicana, a fuggire. Sono quasi una decina, no? Oltre Puigdemont, che sta in Belgio, i parlamentari e comunque le persone che avevano degli incarichi politici durante il Parlamento che ha votato la dichiarazione di indipendenza, che non si trovano sul territorio spagnolo perché altrimenti verrebbero comunque incarcerati, e in questa fase neanche all'orizzonte nella possibilità, insomma, di difendersi, perché comunque i processi non sono iniziati, l'istruzione di questi processi è molto complessa e nel frattempo le persone però sono ancora dentro. Addirittura sono state incarcerate una decina di persone che aveva partecipato al referendum come osservatori internazionali per verificare che l'andamento delle votazioni fosse in qualche modo legale, no? Quello che è avvenuto in quei giorni è una cosa, dal punto di vista della disobbedienza di massa dal punto di vista dell'organizzazione popolare e della partecipazione, qualcosa che io credo negli ultimi decenni forse in Europa non abbiamo la possibilità di dire sia mai accaduto. Cioè che una parte consistente, quasi 2 milioni di persone, siano riuscite a organizzare una votazione, a nascondere le schede elettorali, a nascondere le urne dove andarle a riporle, a occupare le scuole per consentire che i seggi potessero funzionare, a organizzare comunque da un punto di vista anche dell'andamento formale una serie di ingranaggi, per l'appunto questo, della presenza di osservatori che potessero effettivamente verificare che la votazione stava funzionando secondo le regole, come dire, del diritto formale borghese. La partecipazione di massa, nonostante l'atteggiamento prima intimidatorio e poi direttamente brutale della polizia spagnola. Io penso che le immagini di quello che è accaduto il 1 ottobre del 2017 le dovremmo ricordare tutti, immagini feroci, insomma, noi ci ricordano forse, ecco, Genova come l'episodio più simile nella nostra memoria recente, ma un dispiegamento così totale di polizia, richiamata da tutti gli angoli della Spagna, con un atteggiamento veramente in stile coloniale, che sbarca con le navi al porto di Barcellona, occupa la città e picchia i vecchi, i ragazzini che escono che cercano, come dire, di tenere aperti i seggi per poter votare. Io credo che, insomma, una cosa del genere, ma anche prima, voglio dire, al di là dell'idea che si possa avere e delle ragioni che si possano riconoscere al movimento indipendentista e agli obiettivi, no? Io credo che, insomma, non è un'azione di una tale forza, di una tale determinazione, di una tale un tale livello di partecipazione che comunque lascia dovrebbe lasciare chiunque a bocca aperta quasi, e comunque ammirati al di là di tutto per il coraggio che una parte così grande della popolazione catalana è riuscita ad esprimere. Io ricordo che in quei giorni, insomma, non che io nutra una grande stima per Bifo, però no, c'era chi diceva che gli indipendentisti catalani non pensavano ad altro che a coltivare il loro micro orticello di interessi piccolo borghesi, e che il nemico non stava a Madrid ma a Francoforte, e che erano le banche e il governo e la Banca Centrale Europea, no? Con delle affermazioni anche di una, voglio dire, di una ovvietà, ma anche di un'offensiva, no? Di un offensivo cinismo, ma soprattutto considerato il momento di partecipazione popolare che si stava dando in quel momento, no? Allora, ecco, un po' tutte queste cose hanno sicuramente fatto sì che il sottoscritto Marco, che è uno dei, diciamo, redattori e poi principali animatori del programma Radio Scali, che è un po' il megafono che usiamo da Radio Onda Rossa per continuare a parlare dei fatti catalani e più in generale della Spagna, Peppe, che è un compagno che da poco collabora pure con Radio Wombat, ma che vive ormai a Valencia e fa avanti indietro a Valencia e Barcellona da molti anni, e Riccardo, che è un altro compagno italiano che comunque vive a Barcellona da una quindicina d'anni, abbiamo deciso di provare a pubblicare, raccogliendo appunto queste interviste e provando a dare una dimensione un po' più articolata di quello che stava avvenendo là, ecco. E sicuramente la sorpresa nel constatare come alle volte anche negli ambienti più militanti le ricostruzioni dei giornali e della stampa mainstream riesca a diciamo, condizionare poi, no, le idee che ci si fa su un conflitto piuttosto che su un altro in giro per il mondo, in questo caso, sai, ti fa pensare quante volte probabilmente anche leggendo pagine di giornali ti sei fatto un'idea su una cosa che non conosci e l'hai magari presa per buona, no? Poi quando effettivamente le cose le conosci un po' meglio perché quei contesti li hai attraversati e li hai visti con i tuoi occhi, allora ti accorgi un po' di più e diciamo da lì un po' siamo partiti. Questo era l'introduzione che mi sentivo di fare. Però ecco, immagino che anche per voi, per tutti, ma anche per il sottoscritto, il cercare di capire quello che stava avvenendo e che continua a avvenire non sia semplice. Uno non sta lì, non c'è magari stato in quei giorni, come fa a costruirsi un'idea sulle cose, su quello che sta avvenendo? È evidente che lo scoglio della lingua in molti casi rappresenta un problema, perché ormai fortunatamente se c'è un vantaggio che internet ha rispetto al passato è che la pluralità di fonti di informazione è sicuramente aumentata, no? Quindi comunque la possibilità di andare a recuperare informazioni diverse da quelle che arrivano dai giornali è maggiore rispetto al passato, però comunque poi non è semplice districarsi e questo sicuramente ha rappresentato un grande ostacolo. Il fatto che anche da un punto di vista accademico, per quanto valga poco, per quanto sia una parte diciamo estremamente ormai marginale, una voce molto marginale, il contributo che gli intellettuali in generale, gli intellettuali di questo paese in particolare, stanno dando è talmente misero rispetto al dibattito, come dire, delle questioni che riguardano la nostra società che quasi imbarazza, no? Però sicuramente è vero che dei tanti appelli che sono stati promossi negli ultimi mesi su tematiche che riguardavano la violazione dei diritti più elementari, no? Rispetto anche ai detenuti, come dicevo prima, o rispetto alla questione del voto, e che in Italia siano passati praticamente inosservati, certo anche lì non ha aiutato, no? In altri momenti storici probabilmente una piccola cassa di risonanza anche l'avrebbe data il fatto che anche all'interno dei circuiti un po' più accademici qualche professore un po' più impegnato e disposto a investire in prima persona firmava, ci metteva la faccia o comunque riusciva a sollevare con gli studenti, no, determinate problematiche. Tutto questo non è avvenuto. Pensate che di uno degli ultimi appelli, per esempio, che sono stati promossi dall'associazione, da una delle associazioni insomma promotrici del referendum, che è Omnium Cultural, in Italia su una, diciamo, una cosa come 500-600 docenti sparsi per il mondo che hanno deciso di firmare l'appello, di italiani ce ne sono soltanto 6, di cui 4 non insegnano in Italia, cioè si trovano comunque fuori. Una di queste persone che hanno firmato, che è Rossella Selmini, che insegna negli Stati Uniti e si occupa di problematiche appunto della repressione anche lì negli Stati Uniti, dell'atteggiamento insomma della polizia nei confronti delle minoranze, comunque è una persona molto attenta a tematiche riguardanti l'uso della violenza da parte della polizia. Ci raccontava, quando l'abbiamo sentita al telefono a Radio Onda Rossa, che all'indomani del un docente spagnolo, un cattedratico di diritto penale, l'aveva chiamata per chiederle come mai avesse firmato questo appello. Per dire anche che livello di pressione e di attenzione poi in realtà si esercita su chi ha provato anche in forme come queste, poi tutto sommato non neanche particolarmente impegnative, però a manifestare un certo tipo di dissenso, no? C'è sicuramente un muro molto forte, un muro dovuto al fatto che l'ingranaggio che il movimento indipendentista catalano ha provato a mettere in moto non è un ingranaggio che ha a che fare soltanto con la politica interna della Spagna, ma sicuramente ha a che fare con una critica molto più complessiva anche ai rapporti che singoli territori vorrebbero cominciare a stabilire dentro a questa Unione Europea per cambiare questa Unione Europea. Ed è chiaro che l'idea di trasformare questa Unione Europea, da come è fatta, in un'unione di popoli che si ispiri a valori diversi, è un pericolo che deve essere assolutamente emarginato e immediatamente paralizzato, no? Questa almeno è la spiegazione che ci siamo dati noi. Poi, ragionando insieme, possiamo anche cercare di capire fino a che punto invece ci sono ragioni più profonde o al limite invece è una lettura che può risultare fuorviante. L'Europa non funzionerebbe però in questo caso, perché se tenesse l'indipendenza si chiuderebbe fuori dall'Europa, però senza accordi e senza nulla si potrebbe fare all'interno. Questo è stato un dibattito che si è, diciamo, aperto all'interno del fronte indipendentista tra l'area, diciamo, più antagonista anticapitalista, che poi è espressa fondamentalmente dalla CUP, che è questa questo insieme, diciamo, di collettivi indipendentisti che da una quindicina d'anni ha scelto comunque di presentarsi alle elezioni, nonostante tradizionalmente invece avesse un atteggiamento generalmente astensionista, no? E il tema del rapporto con l'Europa ha sicuramente aperto un dibattito con l'area più moderata, perché mentre l'area più moderata, per esempio, cercava a tutti i costi una legittimazione da parte dell'Europa che diventasse anche in qualche modo una sorta di protettorato che potesse sostenere la battaglia catalana rispetto allo Stato spagnolo, per la CUP questo meccanismo non era così determinante, non era così importante, perché sostenevano, e io credo a ragione, che comunque l'Europa alla fine sarebbe schierata con lo Stato spagnolo, ed è quello che poi è avvenuto effettivamente, no? E l'intenzione della CUP in quel momento era di bypassare completamente il problema. Se dovessimo uscire dall'Europa, vorrà dire che si dovrà ragionare sulla costruzione di un'Europa diversa, e dovremo affrontare il problema di un apparente isolamento, ma che in realtà metterà, diciamo, innescherà a catena una serie di meccanismi, una specie di effetto domino di cui l'Europa stessa dovrà poi aver paura, no? In qualche modo. E questo era quello che è avvenuto, diciamo, tra settembre, ottobre e novembre dell'anno scorso. Ora siamo in una fase molto diversa, è chiaro che la reazione dello Stato spagnolo e in qualche modo il riflusso anche del movimento indipendentista, che in questo momento chiaramente ha subito un attacco repressivo molto forte, ha creato uno scenario molto diverso. Adesso è chiaro che non c'è più all'orizzonte una prospettiva di quel tipo, non c'è più effettivamente all'orizzonte una prospettiva di costruzione di uno Stato indipendente, almeno non a breve termine. E quindi anche il dibattito del rapporto con l'Europa è rientrato all'interno di una logica, tra virgolette, come dire, strumentale, no? Nel senso che per il partito catalano moderato, di cui è portavoce Puigdemont, l'Europa è utile nella misura in cui può sostenere il suo rientro in Spagna fungendo da mediatore, no? E diciamo proteggendo la sua posizione, ma non più di questo, ecco. Purtroppo in realtà questa è una riflessione che va fatta. Sicuramente quello che probabilmente una parte del movimento indipendentista non immaginava era il tipo di reazione che lo Stato spagnolo avrebbe raggiunto, no? Nei suoi confronti, e il tipo di colpo che sarebbe stato in grado di infliggere attraverso lo strumento repressivo. Che è chiaro. Non cambierà nulla con Sanchez? No. Questo è un altro equivoco, ma adesso non per voler diciamo semplificare anche la politica interna di paesi come la Spagna o come il nostro, no? Voglio dire che sono poi questioni molto complesse, però sicuramente il nostro è un paese che negli ultimi 10-20 anni ha sistematicamente pensato di innamorarsi di movimenti nati altrove, attraverso i quali poi ricostruire, o come dire, in qualche modo risolvere le proprie debolezze, no? E forse in alcuni casi l'ho fatto anche in buona fede. Pensiamo alla Guzzanti a Viva Zapatero, no? C'è stata una fase in cui, in quel ciclo tra il 2003, 2004, 2005, quando la Spagna voltava pagina e abbandonava la SNAR del triumvirato con Blair, della guerra in Iraq, e votava, no, la sinistra moderata socialista, e riportava il governo alla società, la sinistra moderata socialista, qui in Italia questo fenomeno veniva letto con un'aspettativa di cambiamento, di possibilità di costruire scenari nuovi, assolutamente, diciamo, molto più ideale di quanto poi la realtà non abbia dimostrato, no? con Sanchez è avvenuta per l'ennesima volta la stessa cosa. L'idea che si potesse insediare alla Moncloa un governo socialista e garanzia che in Europa in generale ci fosse la speranza che un vento diverso cambiasse, no? In realtà il problema, ed è un'amara considerazione, però è che poi è una considerazione che, voglio dire, non siamo troppo lontani dall'anniversario dei 100 anni dalla morte di Rosa Luxemburg, no? Però noi non ci dobbiamo mai scordare, non per stigmatizzare la socialdemocrazia europea, ma la socialdemocrazia europea è stata capace di dei peggiori atti efferati e delle peggiori barbarie. Ha ucciso Rosa Luxemburg, ha fatto uccidere Rosa Luxemburg. Il 15 gennaio si è spaccata, i partiti socialisti europei sono spaccati per la partecipazione alla prima guerra mondiale, voglio dire, adesso mutatis mutandis, siamo più di un secolo di distanza da quei fatti, per esempio, però ancora oggi immaginare che un governo presieduto da un partito come quello monarchico di Sanchez, che in tutti questi anni, cioè sono ormai 40 gli anni che separano la Spagna dal franchismo, non siano mai riusciti a mettere in discussione un solo istituto dello Stato spagnolo, chiaramente lascia un po' riflettere sulla anche, diciamo, debolezza di prospettive, no? Il Partito Socialista di Sanchez, che già era come dire, segretario del partito, è quello che ha sostenuto il governo di Rajoy nel momento in cui si è deciso di applicare il 155. Il governo di Rajoy, diciamo, da solo non avrebbe probabilmente adottato questa misura, è una misura assolutamente inedita anche nella storia di un paese come la Spagna, e se lo ha fatto è stato perché anche le forze moderate di sinistra spagnole condividono un impianto generale dello Stato, ed è l'elemento che probabilmente dall'esterno si riesce a percepire di meno, e che ha fatto sì anche che probabilmente qui da noi si vedesse il movimento indipendentista come un movimento che non era sufficientemente capace di dialogare, no? E di intavolare delle discussioni sulla riforma dello Stato con la controparte. In realtà, purtroppo, tanto il Partito Popolare, e qui non ci sarebbe da meravigliarsi, ma soprattutto il Partito Socialista Operaio Spagnolo e anche Podemos, in tutti questi anni, Podemos di meno perché è nato nel 2014, ma insomma dal 2010 ad oggi, hanno in tutti i modi possibili ostacolato l'ipotesi che la Spagna si avviasse verso una riforma costituzionale che al limite potesse anche diciamo, accettare in parte le richieste indipendentiste, no? E quindi in qualche modo anche tollerare un grado di autonomia tale da poter soddisfare almeno la parte più moderata di quel movimento. Sicuramente una reazione così netta e così dura da parte del governo centrale ha alimentato molto dall'altra parte in Catalogna le richieste, e sicuramente ha spinto ancora di più una parte della popolazione a immaginare che l'unica strada possibile per garantirsi un assetto istituzionale diverso fosse quello dell'indipendenza, di fronte al fatto che dall'altra parte era oggettivamente vero che non ci fosse nessuna volontà di intavolare nessun tipo di discussione, insomma, ma né da parte del Partito Popolare, ma tantomeno, purtroppo, dico io purtroppo, insomma, no, da parte del Partito Socialista Operaio Spagnolo e di Podemos. Noi non l'abbiamo inserita nel libro, però diciamo, con la radio abbiamo intervistato tra i tanti anche un importante professore di scienze politiche che si chiama Jaime Pastor, che è uno in realtà anche degli ispiratori del progetto di Podemos e che fa parte all'interno di Podemos dell'area anticapitalista di Podemos, nella quale c'è Miguel Urbán, per esempio, che è uno dei deputati europei che sono stati eletti nelle elezioni europee del precedente turno. E, Jaime Pastore ha scritto un libro molto bello e che è ancora, secondo noi, molto utile per capire quel rapporto che in Spagna c'è fra i partiti e il nazionalismo, che si chiama proprio il nazionalismo spagnolo, e che è un'attenta ricostruzione di quanto i partiti nazionali, anche quelli di sinistra, siano attraversati da una diciamo forte dimensione nazionalistica, che in tutti questi anni ha impedito anche a buona parte della sinistra spagnola di affrontare in modo diverso da come faceva la destra del Partito Popolare tutti quei fenomeni di richiesta di autonomia che avvenivano nei vari territori del País Basco. Ricordiamoci che l'esperienza del GAL, non so se voi ne avete mai sentito parlare, ma del cosiddetto terrorismo di Stato, cioè quella forma di lotta al terrorismo basco che è tragico perché organizzato dallo Stato stesso, fu attivato durante il governo di González, e quindi durante il governo del Partito Socialista Operaio Spagnolo, no? Quindi comunque ci sono anche degli esempi di tragica chiusura e di tragica volontà di eliminare questo tema, e al punto da attivare una sorta di terrorismo di Stato, e con delle conseguenze tragiche, perché poi l'intervento ha determinato la morte e la tortura nel País Basco di molte persone. Quindi, per dire che è chiaro che questo è un problema grande in Spagna anche per le organizzazioni di sinistra, che non sono mai riuscite a affrontare staccandosi da quell'accordo iniziale che aveva fatto in modo di approvare la Costituzione del 78 e di superare la fase franchista della storia della Spagna, e che però non ha avuto un seguito, no? E che quindi ci ha portato ancora adesso a una situazione di enorme stallo, nella quale purtroppo osserviamo fatti repressivi estremamente drammatici. Adesso lo sciopero della fame è finito, per esempio lo hanno interrotto sia Jordi Cuixart che Jordi Sánchez, che è omonimo di Sánchez ma non c'entra niente con il segretario del Partito Socialista. E però durante un mese sono stati in carcere scioperando, perché la loro situazione si è fatta veramente insopportabile, e nonostante questo l'attenzione, come dire, dei media, ma anche nostra in qualche modo, fa fatica, no? a farsi sentire. Fa fatica perché chiaramente è una fase in generale in cui la repressione colpisce tutti quanti, ci colpisce duramente, però certo che lì in particolare il livello di accanimento meriterebbe probabilmente un altro tipo di risposta, che secondo noi dobbiamo cercare comunque in qualche modo di produrre, perché non diventi il pretesto, soprattutto perché poi si possa prolungare e ripetere nei confronti di tutti quelli che avranno il coraggio nel prossimo futuro di sfidare in modo così radicale, così deciso e così determinato le istituzioni del proprio paese, no? Perché quello che poi alla fine è stato imputato, ed è una cosa che fa riflettere se non tristezza, è che probabilmente una delle colpe del movimento indipendentista catalano è quella di aver veramente rischiato di vincere la sua battaglia, perché nei commenti che spesso abbiamo ascoltato noi erano proprio di questo taglio, cioè ma che vi siete messi in testa di fare? Ma come pensate di poter fare questa cosa? Dire che il punto massimo, tra virgolette, non violento all'interno comunque di un perimetro democratico, d'accordo? Dove alla fine anche le masse popolari sono riuscite a evocare. Io sono cioè, alla fine non è che c'è stato a dire, tutto un movimento armato a sostegno di questo processo qui. Non c'è stato, non è il paese basco questo. Non è il paese basco. Perché questa è una cosa che va letta nella differenza spagnola. Cioè, chi gli ha fatto più male alla corona spagnola è stato il paese basco, no? Cioè, Carrero Blanco e se ne vola, no? D'accordo, la sua fantastica macchina. Noi siamo qui anche a festeggiare quei giorni, però da un'altra parte da un punto di vista di movimento popolare, di massa e di organizzazione popolare è quello che farà, che alla fine dei conti ha dato, no? Un maggior spessore, una maggiore visibilità anche europea, cioè che va anche qua, cioè, anche lei mamma ne poteva parlare su questa cosa. E onestamente io mi chiedo, perché se magari ti faccio ancora una domanda. Cioè qual è l'eredità a livello popolare adesso, cioè cos'è rimasto in un'organizzazione popolare, cioè di quelli che tu dicevi dell'organizzazione dei seggi, dei ragazzi posso immaginare, cioè gli scalotti di quartiere magari facevano un po' da spoletta, no? E poi dopo alla fine cioè, dovevi controllare il territorio, perché entravano gli sbirri nel tuo quartiere, cioè che fondamentalmente i quartieri che avevano comunque un'estrazione di classe, comunque che era un quello più radicata all'interno di una sinistra popolare e sosteneva determinati tipi di partiti, ti puoi immaginare che cosa non sia arrivato all'interno di quel partito, no? Cioè i famosi mossos, no? Cioè, e quelli sono arrivati nei partiti popolari, non è che non sono arrivati, hanno picchiato, hanno fatto questo. Quindi la domanda che volevo fare era, cioè che cos'è rimasto? Cioè l'eredità ad un anno di distanza, cioè a livello popolare. E poi al di là di Puigdemont, insomma di tutto quello è cioè, un po' in onestà, melassa liberal socialdemocratica, lo metterei addirittura insieme liberal socialdemocratica, poi dopo alla fine è un tipo di melassa che secondo me sta alla fine assieme, d'accordo? Sono stati assieme. E infatti, ma non lo dico a caso. Cioè invece che cosa comporta nelle fasce popolari della popolazione? Cioè, quello è quello onestamente che ti è venuto fuori, cioè dalle testimonianze insomma, che avete intercettato, di capire, cioè qual è l'eredità umana. Intanto cioè, su quello sono stato, il discorso dei partiti sono stati dentro questo processo e quello la gente si è vissuto nei quartieri. Intanto il colpo, bisogna essere sinceri, in questo momento della repressione, come avevo detto anche prima, è stato molto duro. Quindi cosa è rimasto? È rimasto dal punto di vista strettamente organizzativo i comitati di difesa della Repubblica, che i cosiddetti CDR, questi CDR che erano nati come comitati di difesa del referendum, una volta che il referendum si è realizzato, ma che la macchina repressiva dello Stato poi ha impedito che raggiungesse il risultato dell'indipendenza e ha fondamentalmente attivato una forma di protettorato sulla Catalogna, si sono trasformati in comitati di difesa della Repubblica. Che è un'altra cosa pazzesca, cioè io già soltanto per questo a me c'erano momenti in cui andavo in tilt col cervello, no? Perché tu parlavi con dei compagni e dico, ma questi, ma tu lo sai che in Spagna c'è la monarchia? Sì. Cioè dico vabbè, mo adesso questi a te ti sarà pure antipatica l'indipendenza, no? Però cioè nel senso questi vogliono costruire comunque un paese repubblicano che non è il socialismo. Vabbè, però visto che tanto per il momento è ancora un orizzonte lontano quello lì, nel frattempo questi vorrebbero almeno liberarsi dal controllo di una, tra l'altro anche proprio voglio dire, dei casate. C'è Borbone, no? C'è il Borbone che solo a nominarli, io penso manco a Napoli ci può rimanere qualcuno che si difende il Borbone. Ma non esiste. C'è per cui c'è i neomurattiani, c'è un Borbone, diciamo. per borbonici, come fai a difendere i Borbone, no? Cioè questi comunque, voglio dire, anche rispetto solo a un tema apparentemente formale, però poi le cose vanno pure lette dentro la loro dimensione, no? Qui, senza voler risalire a testi sacri del pensiero marxista, però non è che poi la costruzione di un orizzonte di liberazione e di emancipazione sociale si raggiunge così dall'oggi al domani, no? Magari ci sono anche delle fasi intermedie in cui, per costruire delle alleanze, liberarsi da una monarchia, anche solo per istituire una repubblica, può anche rappresentare un fatto progressivo, e alcuni di noi comunque hanno avuto la sensazione che questa prospettiva in Catalogna sì che fosse estremamente progressiva, proprio perché la dimensione reazionaria di quella casata monarchica lì e la funzione che quella casata monarchica aveva lì all'interno della, come dire, organizzazione statale spagnola, sì che aveva un senso, certo. Togliersela di torno poteva significare anche per il resto del territorio spagnolo rimettere, tant'è che comunque in un modo o nell'altro il dibattito sulla monarchia e la repubblica in Spagna si è aperto. Non è vero che l'indipendentismo ha spinto la società spagnola verso destra. Altro grandissimo equivoco, poi come al solito bisogna sempre dare la colpa a qualcuno, per cui se vince la destra è colpa degli indipendentisti. Ormai gli indipendentisti sono diventati come ETA negli anni Ottanta, no? Qualsiasi cosa che succede è colpa di ETA, qualsiasi cosa che succede è colpa degli indipendentisti. Quindi se vince Sanchez è colpa degli indipendentisti, se non passa la finanziaria è colpa degli indipendentisti, se non passa, se crolla il governo è colpa degli indipendentisti, sempre colpa degli indipendentisti, no? Se è nata Vox è colpa degli indipendentisti, senza che nessuno dica che Vox già c'era. Già c'era. I voti di Vox corrispondono semplicemente alla crisi del Partito Popolare, ma la crisi del Partito Popolare è frutto di anche un processo di decomposizione interna del Partito Popolare, che a forza di esporsi a livelli di corruzione e di impresentabilità hanno comunque motivato una parte interna del partito, che comunque c'è sempre stata l'ala più estremista, a, diciamo, staccarsi per dar vita a un partito nuovo, ma che la cui presenza nella società spagnola c'è sempre stata e più o meno corrisponde a quella che adesso dal punto di vista elettorale ha ottenuto in Andalusia, eh? Non è che stiamo parlando di chissà quali scenari, nuovi scenari di reazione rispetto a quello che è accaduto in Catalogna, perché anche questa sicuramente è stata una delle cose che si sono dette, una delle cose che dicono per esempio i compagni, io per me sono compagni comunque di Podemos, è che la situazione che c'è adesso in Spagna è responsabilità, no, degli indipendentisti, e io credo che questa sia una lettura estremamente povera e superficiale che non aiuta a capire nessuno, no? Quindi da un lato, ecco, no, i CDR, no, come sicuramente dei nuclei estremamente radicati e presenti nel territorio, il cui impatto però in questo momento chiaramente è un po' più debole rispetto al recente passato, perché adesso in Catalogna si parla soltanto di repressione, cioè è molto difficile in questo momento, perché purtroppo il livello che è stato raggiunto dallo Stato, il numero di incarcerati, siamo arrivati a una cosa come 1150-1200 indagati, tra indagati e incarcerati, e parliamo non soltanto di militanti di base arrestati per singole manifestazioni, ma parliamo di assessori, sindaci, portavoci, cioè tutta una macchinaria organizzativa che in qualche modo è stata ritenuta copartecipe, con una forzatura giuridica chiaramente immensa, no? Cioè, però questa è la forza dello Stato, il monopolio della violenza ce l'ha lui, no? Quindi comunque lui intanto te mette dentro, poi dopo vediamo se c'è qualcuno che dimostra che è stata data un'interpretazione sbagliata del codice che sia penale o amministrativo, intanto sei finito dentro, no? Sei finito dentro tu, il funzionario del ministero che non ha firmato la circolare, il portavoce, lo stenografo che stava trascrivendo i dialoghi della seduta nella quale hanno votato il referendum dell'indipendenza, no? Cioè, voglio dire, stiamo arrivando a un punto di una violenza che chiaramente supera non dico tanto i limiti, ma la nostra anche stessa comprensibilità, perché noi non abbiamo vissuto nella nostra memoria militante, credo nel recente passato, un livello così diffuso di repressione, no? Che si sia comunque abbattuta su una società colpendola in modo così orizzontale, no? Cioè, quindi orizzontale e verticale, cioè dall'alto al basso, prendendo tutti e mettendo tutti quanti dentro, no? Cioè, nonostante tutto, tu hai in Val di Susa non hanno arrestato il sindaco di Tramonte o quello di Bussoleno. Sono episodi che non sono avvenuti. Cioè, adesso noi abbiamo. Mimmo Lucano, no? Cioè, in qualche modo il paragone che noi possiamo fare è con un sindaco che, essendosi rifiutato di applicare una legge e appellandosi a un diritto di disobbedienza. Questo è l'aereo. Però non abbiamo vissuto un fenomeno così drammatico, drastico e diffuso di repressione sociale. Sì. Almeno io, comunque, penso che il grado, di voglia, insomma, di giustizia sociale, cioè di un movimento indipendentista, si possa misurare anche dai rapporti che ha, essendo appunto anche di identità nazionale, tra virgolette, rispetto alle migrazioni, insomma, no? Rispetto ai migranti. Ecco, in questo caso, nella sua generalità, il movimento indipendentista catalano, che grado di, tra virgolette, di antirazzismo e di antifascismo? Per esempio, no, in movimenti, quelli forzi molto spesso scadono in una esaltazione identità nazionale che è anche sotto certi aspetti contraria, ai migranti, agli immigrati, considera che non so se vi ricordate. Ma sembrava, insomma, no, che sono stati anche impiegati, forze fasciste, gruppuscoli, per cercare di colpire al di là degli apparati polizieschi, insomma, no? Com'è il rapporto tra, la generalità del movimento di indipendenza rispetto agli immigrati? Ma di totale adesione a un progetto sociale inclusivo e antirazzista. Se vi ricordate, anche una risposta popolare molto forte, perché è stato l'unico di questi movimenti che si è espresso in questa maniera. Il movimento si è schierato subito, contro l'azione che cercava. È una cartina di tornasole. Assolutamente. Dire, che non è soltanto un. Appunto, ci sono anche compagni, situazioni di movimento e così via. Ma io, guarda. Sembrano cose aneddotiche o superficiali, no? Ma il discorso di Anna Gabriel al Parlamento de Catalunya il giorno della dichiarazione, cioè in realtà il giorno in cui si è votato al Parlamento l'istituzione del referendum, cioè il 7 settembre del 2017, lei è di fronte al microfono con una maglietta del PKKQ. Noi stiamo parlando di ambienti assolutamente solidali con le lotte di liberazione nazionale e internazionali nel mondo, no? Un movimento di assoluta, anche qua, cioè il movimento indipendentista catalano è un movimento trasversale, sociale, che abbraccia settori molto diversi, noi nel libro abbiamo provato a spiegare che al suo interno una componente minoritaria, ma estremamente presente e convinta delle proprie posizioni, era quella anticapitalista internazionalista. E che questi compagni e queste compagne, che noi rispettiamo moltissimo, che sono nelle lotte quando si tratta di difendere gli sgomberi, degli sfratti, dei posti occupati, dei centri sociali, e quando si tratta di contestare la gentrificazione nei quartieri, l'espulsione delle classi popolari perché devono essere liberati alloggi per i turisti del nord Europa, quando si tratta di fare le battaglie contro i centri di detenzione per gli immigrati irregolari, quando si tratta di andare ad accogliere al porto le navi che girano per l'Europa piene di migranti perché nessuno le vuole accettare, stanno lì, sono dei promotori in prima persona di queste battaglie, di queste lotte, stanno lì, rischiano sulla loro pelle, finiscono dentro, prendono le denunce. Allora c'è qualcosa che non torna. Allora questo movimento indipendentista catalano non lo possiamo liquidare semplicemente come un fenomeno leghista, un neosovranista, no? Non lo possiamo semplicemente liquidare come il movimento di chi vuol fare un altro Stato in mezzo ad altri Stati, che sarà comunque uno Stato inevitabilmente sottomesso alle logiche del capitale. Sì, sicuramente, però questi compagni parlano di repubblica femminista, parlano di repubblica mista, parlano di convivenza civile fra stranieri e autoctoni. Fanno una battaglia molto forte, ma che è una battaglia che può essere letta in molti modi diversi, ma comunque fanno una battaglia molto forte, per esempio, per il rispetto della lingua catalana, questo sì, ma perché in un contesto dove il catalano è la lingua veicolare, cioè la lingua più parlata da tutte le persone che stanno lì, pretendere che le scuole insegnassero il catalano è stato e continua ad essere una forma di inclusione, non di esclusione. Se tu sei un immigrato e io a scuola ti insegno soltanto il castigliano, ma poi per strada si parla il catalano e al lavoro parlerai catalano e io non ti do la possibilità di imparare il catalano, tu avrai meno possibilità di trovare lavoro e un'occupazione, perché nel mercato del lavoro sarai sfavorito rispetto a chi parla il catalano ed è autoctono, no? Quindi la grande battaglia, per esempio, delle organizzazioni di destra reazionarie come Ciudadanos, come il Partito Popolare, contro questa importante legge che in Spagna, che in Catalogna si chiama la legge di immersione linguistica, no? È in realtà funzionale a costruire un'esclusione sociale, non un'inclusione. L'inclusione lì la fa il catalano nelle scuole, perché poter studiare nelle scuole spagnole sia il castellano che il catalano ti permette di avere effettivamente la possibilità poi dopo di inserirti nel mondo del lavoro, no? Di tutte queste cose fanno del movimento indipendentista e soprattutto della sua componente antagonista e anticapitalista sicuramente degli interlocutori e per noi degli alleati. Certo non degli avversari con i quali possiamo discutere, anzi è assolutamente legittimo, e anche legittimo, come noi poi proviamo anche a fare durante la trasmissione, quando abbiamo l'opportunità di parlare con alcuni di loro, riusciamo a coinvolgerli direttamente sulle prospettive, sugli errori che sono stati commessi, sulla sottovalutazione della reazione dello Stato, sull'idea che ci poteva essere estremamente ottimistica, per esempio, rispetto alla solidarietà che le istituzioni catalane avrebbero dimostrato al processo di indipendenza, perché è chiaro che lì si è creato un cortocircuito, nel senso che le istituzioni, l'amministrazione pubblica catalana non ha dimostrato di essere in grado di inceppare la macchina repressiva dello Stato spagnolo, no? Lì, a un certo punto, chiaramente, data la premessa, cioè dichiarazione unilaterale di indipendenza, allora ci voleva una macchina amministrativa predisposta per disobbedire alle indicazioni dello Stato centrale, per poterla rendere operativa, per inibire la repressione che veniva dal centro. Cioè, se lo può fare, è un grande problema, ci mancherebbe, no, no, per carità, però probabilmente quello che noi, alcuni di noi, insomma, quando interagiamo, proviamo a capire alcune cose, ci permettiamo, no, di provare a capire, ma loro stessi, voglio dire, nella CUP, fuori dalla CUP, nelle organizzazioni, come dire, affini alla CUP, questo ragionamento, chiaramente questo, cioè, che ci sia stata una sconfitta è un dato di fatto, su questo nessuno può, diciamo, negare che lo Stato abbia in qualche modo vinto per il momento la sua partita. Quindi se lo Stato ha vinto, qualche errore da qualche parte è stato commesso, quindi anche cercare di capire che, secondo me, ed è la riflessione che dobbiamo fare, che non vuol dire, come dire, scadere nel senso di colpa, ma sicuramente, sicuramente, come succede in tutti i movimenti, l'emancipazione non la costruisci prima, la costruisci, te la prendi. Ma sì. Quindi è chiaro che se, rispetto a quello che è avvenuto in Catalogna, si fossero innescati dei fenomeni di solidarietà che non ci sono stati, gli scenari probabilmente potevano essere diversi. Certo. Ed è questa, secondo me, la lezione che dovremmo trarre. Perché se un domani, spero il più vicino possibile, altrove, in un qualsiasi territorio, che sia quella territoriale la chiave o un'altra, perché le gilets jaunes, dicono gli spagnoli, tre quarto dello mismo, nel senso, anche lì grande confusione, non l'ho grande, però voglio dire, qui il problema è che ogni volta che esce fuori qualcosa che si propone di contestare radicalmente una determinata situazione, diciamo, dovremmo analizzare che tipo di reazioni abbiamo, no? E che tipo di resistenze immediatamente attiviamo, che non vuol dire che abbracciare indipendentemente da tutto e da tutti qualsiasi cosa si muova nella società, no? Però nemmeno tanto meno avere la puzza sotto il naso, però tanto meno avere la puzza sotto il naso, no? Quello mai. Allora, cosa rimane in Catalogna? Secondo me è vero che rimane la repressione, come dicevo prima, nel senso, quello secondo me è un dato, però rimane rimane tanta depressione perché c'è stata proprio poca solidarietà. Sì, sono d'accordo. C'è stata poca solidarietà. Sì, sono d'accordo. E continua a esserci poca solidarietà. Non solo nei confronti delle persone che sono state incarcerate e che rischiano di subire pene, ma pazzesche, stiamo parlando di 200 anni di carcere. Cose da Inghilterra vittoriana, insomma, da pena di morte, nel cuore dell'Europa liberale, no? Quindi così. Solo perché c'è stata poca solidarietà, ma perché secondo me, vuol dire, non si è colto come questo movimento abbia, cioè sia riuscito a fare scacco alle forze moderate. Cioè, il Puigdemont probabilmente non sarebbe mai arrivato dove lo hanno spinto se non ci fosse stata dal basso una spinta potentissima che lo ha messo di fronte a un muro contro muro. Come dire, il nazionalismo moderato, anche un po' sciovinista di destra, ha governato la Catalogna per 30 anni, ma pure il País Basco l'ha governato, perché il Partito Nazionalista Basco batteva il pugno sul tavolo, ma poi andava a Madrid da Aznar, gli dice: va bene, ti voto la finanziaria, dammi un po' d'autonomia, si mettevano d'accordo, pace e patta, e finiva là. C'è una bella metropolitana, è la prima volta che un movimento indipendentista radicale costringe l'ala più moderata ad assumere posizioni che non avrebbero mai avuto voglia di assumere, perché loro in questo giochino di contendere a Madrid briciole in più o in meno di autonomia sarebbero andate avanti per decenni, perché è il gioco che hanno portato avanti durante tutta la transizione e continueranno a e continueranno a farlo, perché già le dichiarazioni, insomma, degli ultimi giorni, le portavoce di schiera repubblicana, ma comunque adesso, senza entrare nella cronaca politica che tanto non ci serve, no? Quindi anche questo è un dato importante, cioè si può fare scacco alle forze moderate. Certo è che tu ci devi avere un piano, come dire, più articolato, e probabilmente lì si è agito sulla base di una percezione di una possibile di un possibile sommovimento sociale che in realtà non c'è stato. Torno al discorso di prima: se tu pensi di, come dire, occupare le istituzioni, ti devi garantire che effettivamente poi all'interno delle istituzioni la macchina amministrativa, quando arriverà l'ora della verità, sarà solidale con te, e quindi non farà la telefonata, perché poi sono dispositivi del potere, sono dispositivi molto banali e materiali, eh? Staccherà il telefono, non manderà i mossos de squadra, spararizzerà il dispositivo di controllo dello Stato al punto tale che poi a un certo punto inevitabilmente lo Stato, a quel punto poi non so che cosa avessero immaginato, se effettivamente i carri armati, però certo a quel punto sarebbe diventato anche difficile effettivamente immaginare di occupare territorialmente, no? Una città o una regione come la Catalogna con i carri armati, perché non riuscivano a far applicare i dispositivi dello Stato centrale, no? Però questo non è avvenuto, e questo chiaramente è una riflessione che l'indipendentismo antagonista, anticapitalista deve fare nell'essere più capace di analizzare i rapporti di forza e la propria effettiva capacità di condizionare, diciamo, settori sociali, alleati, limitrofi, cugini, vicini, certo, ma non immediatamente contabilizzabili in termini elettorali, che però sono fondamentali nel momento in cui tu vuoi produrre una vera e propria rivoluzione, no? E che rispetto ai quali invece non c'è stata la capacità di esercitare un controllo, perché effettivamente che hanno fatto? Hanno comunque accettato le regole dello Stato. E questo ha inibito qualsiasi profonda trasformazione e ci ha catapultato in una situazione drammatica, nella quale, ripeto un po' quello che dicevo prima, sicuramente il tema della solidarietà è un tema che ci deve far riflettere.